9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon lunedì 11 aprile. Abbiamo alle spalle dei giorni incredibili, dei giorni in cui caldo arroventato sembrava quasi che fossimo a fine luglio. E allora, per via di questo caldo, ho pensato al caldo che a me preoccupa sempre, con me naturalmente un incubo, quello sono un po' malato, della spesa pubblica, del debito che si accumula, delle tasse che naturalmente ci aspettano sempre dietro l'angolo, e mi è venuto in mente di proporvi una riflessione sugli Stati Uniti, l'America di Obama, in realtà tutta incentrata su una differenza di fondo, chiedendo a chi segue specificamente l'America, a chi ha delle opinioni strutturate sull'America, di aiutarci a capire, a rispondere a una domanda: come mai c'è una differenza così radicale nell'impostazione che la politica americana dà al tema della spesa pubblica, del debito e delle tasse da una parte, rispetto a come invece questi temi vengono affrontati da noi? E quindi partiamo da un esempio. Questo è il fine settimana in cui Barack Obama, che ricordo tutti, ha perso le elezioni del midterm nello scorso autunno, quelle di mezzo mandato, perché l'America ha mandato un segnale potentissimo di diffidenza, di un giudizio negativo nei confronti delle sue politiche, innanzitutto proprio sul tema della spesa pubblica, del debito pubblico e delle tasse. Quindi la Camera dei Rappresentanti è a maggioranza repubblicana, e una maggioranza repubblicana in cui conta moltissimo la componente dei cosiddetti Tea Parties, ne abbiamo parlato molte volte, un movimento dal basso che diffida del big state, dello Stato troppo presente nell'economia, e ha dato un mandato molto forte a questa maggioranza repubblicana, la Camera dei Rappresentanti, quella di fermare il debito pubblico e le tasse di Obama. Per questa ragione, alla fine dello scorso anno, al Congresso, Senato, ancora maggioranza democratica, e Camera dei Rappresentanti e maggioranza repubblicana, i democratici non sono riusciti ad approvare una legge di bilancio. E quindi che cosa succede? Succede che negli Stati Uniti non si può procedere indefinitamente in caso di mancata approvazione di una legge di bilancio per dodicesimi, per esercizio provvisorio, come è da noi, entro un certo limite. Da noi si va avanti così. Lì è proprio previsto che se poi manca l'accordo bisogna chiuderli gli uffici federali, e quindi stamattina tutti gli uffici federali negli Stati Uniti hanno rischiato di non aprire i battenti se entro la mezzanotte tra venerdì e sabato scorso, l'estremo limite, non si fosse raggiunto il compromesso tra la maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti e la maggioranza democratica al Senato attraverso la Casa Bianca. Le posizioni erano molto distanti, perché i democratici offrivano tagli per l'anno in corso, praticamente per i 6 mesi che mancano a fine esercizio di quest'anno, pari più o meno a soli 6 miliardi di dollari. I repubblicani volevano 60 e più miliardi di dollari di tagli, e alla fine il presidente ha dovuto rimpannucciare le sue bandiere e accettare tagli per 38 miliardi di dollari. 38 miliardi di dollari in 6 mesi sono, fate il conto, il doppio su base annuale, fatevi il conto di quanto siamo lontani dai tagli alla spesa pubblica italiana, anche in proporzione al PIL, voglio dire, che tanto fanno urlare la politica, sia all'opposizione che ai compagni di maggioranza, le Giulio Tremonti, nel nostro paese. Pensate, un paese che chiude gli uffici se i politici non trovano l'accordo, non come da noi dove tutto è diluito, tanto c'è la certezza che paga il contribuente. Sullo sfondo un contrasto ancora fortissimo. Non è che con questo compromesso si risolve per il semestre, ma le settimane scorse tutti i giornali negli Stati Uniti hanno seguito il grande dibattito, perché un parlamentare repubblicano, Paul Ryan, ha presentato una specie di roadmap per la finanza pubblica, un vero e proprio controprogramma rispetto a quello dell'amministrazione, e c'è un enorme confronto che appassiona, divide, spacca gli accademici, gli editorialisti, tutto il dibattito pubblico americano. È un confronto dove innanzitutto si parla di cifre, non di chiacchiere. Anzi, alcuni dicono che si parla fin troppo di cifre, perché nello spot di presentazione, che potete scaricare se andate sul sito di Paul Ryan, vedete che Paul Ryan in 3 minuti fa apparire proprio degli istogrammi colorati a fianco di cui parla e presenta il rischio, naturalmente lui ha tutto l'interesse a dipingere Obama come un irresponsabile, il rischio della, che con l'amministrazione Obama corre gli Stati Uniti, quello di arrivare al 344% di PIL di debito pubblico nel 2050, cominciando a superare il 90% già dal 2022. E quindi il rischio di un paese in cui la spesa pubblica federale arriva, la spesa pubblica, perdonatemi, arriva al 45% del PIL, pensate che loro lo vivono come il terrore, da noi siamo al 52% e c'è chi dice che deve ancora aumentare, e rispetto a questo dice no, la nostra controproposta è una controproposta che tiene la spesa pubblica al 20% del nostro PIL e taglia rispetto alle proposte di spesa dell'amministrazione la bellezza di 6,2 trilioni di dollari, cioè 6.200 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di un aggregato pari a oltre un terzo dell'intero PIL americano, naturalmente su base pluriennale, ecco. E il confronto avviene con dati percentuali di questo tipo alla mano. Naturalmente si scatena poi tutta la polemica del caso. Come vedete, le differenze ci sono. Ci sono differenze di regole fino al punto in cui si chiudono gli uffici se non ci sono misure precise adottate. Ci sono differenze di stile perché i politici non si tirano indietro dalle cifre, fanno proposte tanto precise e quantitative che vengono accusati di essere poi demagoghi, di forzare le cifre, chi in un senso, chi l'altro. Però intanto si fanno gli spot con le percentuali, le cifre eccetera eccetera, non avviene mai, e terzo si è obbligati poi a delle decisioni, si è obbligati perché il sistema funziona in maniera tale per cui maggioranza e opposizione devono per forza trovare su numeri soluzioni concrete condivise, altrimenti si ferma il tutto. Da noi, da questi tre punti di vista, mi pare che la situazione sia molto diversa. Allora poniamoci la domanda: come mai? Forse conta il fatto che tanto lo Stato da noi conta sulla nostra remissione, sul nostro fatalismo. Noi a oltre il 52% di spesa pubblica del PIL siamo ancora divisi tra coloro che dicono che non facciamo abbastanza per pagarle le tasse, tantissimi, e coloro che dicono che in realtà ci sono già troppi tagli, bisogna spendere ancora di più. Ecco, cioè, questa è una differenza di fondo, una differenza culturale, per esempio. Allora, sentiamo come la pensa innanzitutto Glauco Maggi, che è un giornalista della Stampa, scrive per Libero e ha scritto con Maria Teresa Cometto un libro, Obama dimezzato, che secondo me è uno dei migliori libri che siano usciti sulla presidenza di Barack Obama, innanzitutto perché è molto snello, sono 173 pagine comprese le schedine e i numeri, ma ha il pregio di presentare l'Obama nel midterm, quello che si è rivolto agli americani poi perdendo le elezioni al midterm, con delle schedine, dei capitoli molto brevi in cui ricapitola dall'inizio ciò per cui si era presentato, perché aveva avuto successo, perché le cose stanno andando diversamente, quali sono i problemi aperti, e documentando tutto con numeri piuttosto che con giudizi. È di Boroli Editore e io ve lo consiglio davvero. Oltre a Glauco Maggi, che saluto, buongiorno Maggi. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo con noi Guido Moltedo in questa prima parte della trasmissione, che è capo della redazione estera di Europa, anche lui ha scritto un libro come coautore, Barack Obama, la rockstar della politica americana. Buongiorno Moltedo. Buongiorno, buongiorno. Allora Maggi, questo compromesso dell'ultimo secondo per evitare la chiusura degli uffici federali, quanti problemi chiude e soprattutto però che problemi apre sulla scelta di lungo periodo del debito e della spesa americana? Obama riuscirà a fronteggiarla, la pressione del basso dei contribuenti conservatori che hanno detto fermate questo irresponsabile, oppure saranno, e questa seconda componente troppo demagogica, che alla prova dei numeri si brucerà le mani? Buongiorno, dunque no, io credo che sia giusto innanzitutto dare ad Obama un merito, che è quello, con la sua politica nei primi due anni, che appunto noi grazie del riferimento hai ricordato, abbiamo documentato nell'esaminare la politica economica di Obama. Obama ha proprio risvegliato nella coscienza americana il problema acuto che era già nei libri e nella testa di larga parte della classe politica, soprattutto conservatrice, l'ha risvegliato a livello proprio popolare, cioè il problema con la riforma sanitaria, che è stata una forzatura direi così clamorosa che la metterei al centro tra gli argomenti che hanno poi provocato la rivolta dei Tea Party, con la riforma sanitaria costosissima e non gradita e con il superstimolo attuato un mese dopo essere entrato in carica, che invece di abbassare la disoccupazione l'ha alzata. Ecco, con questa sua azione, sommariamente, si può dire che ha risvegliato e ha rimesso in primissimo piano proprio il tema del debito pubblico e della spesa pubblica, della insostenibilità. In America, hai detto bene, Oscar, il concetto di insostenibilità è molto molto chiaro e molto prima di quanto sia veramente insostenibile, cosa che oggi è in Italia. Qui cercano, ormai direi almeno la metà degli americani, cercano di fermare questa onda statalista che è arrivata e qui fa scandalo appunto al 23-24% e che rimane tale. Nel programma di Obama dei 10 anni, quello che adesso lui ha fatto annunciare ieri vorrà rivedere, ma secondo me sarà solo una revisione, diciamo, di facciata, nel suo budget 2012 dell'anno prossimo prevede 1.100 miliardi di tagli in 10 anni, ma scavando sotto si vede che i 2/3 sono un semplice stop agli aumenti per i dipendenti federali e 1/3 sarebbero invece aumenti di reddito. Cioè, quindi è un taglio alla rovescia e questo aumento di reddito verrebbe dall'eliminazione delle agevolazioni fiscali di Bush a fine dell'anno 21 e ad altra eliminazione di facilitazioni alle aziende, alle corporation che dovrebbero essere abolite. Quindi Obama, aspettiamoci un Obama ancora più retorico nei prossimi giorni, perché questo è l'annuncio, che il preannuncio è stato fatto, ma nella sostanza aspettiamoci invece una battaglia durissima su prima su un tema che tu non hai citato, ma che senz'altro conosci sarà una scoperta anche questa per valutare l'America rispetto all'Italia, che è il tetto per legge al debito che si può raggiungere. Allora, oggi il tetto del debito è fissato per legge intorno ai 14.250 miliardi e il problema è che stiamo arrivandoci, perché il 30 settembre scorso era già a 13.500. Che entro maggio quasi ci si arriva, quindi poche settimane, quindi bisogna alzarlo. Allora, il problema è che fino al 16 maggio siamo sotto con i conti, perché come tu hai giustamente ricordato, qui a un certo punto o i soldi esistono anche nella contabilità e allora si va avanti, o se no si ferma la macchina. E allora la vera battaglia, la più forte battaglia che ci sarà imminente, in questo senso la tua domanda che cosa ha risolto, Obama ha risolto per ora il problema della finanziaria passata, quella del 2011, qui l'anno fiscale va da fine settembre di ogni anno alla fine settembre dell'anno successivo, quindi qui i democratici che erano in maggioranza sia alla Camera che al Senato nell'ottobre scorso avrebbero dovuto fare la finanziaria e non sono riusciti, quindi non sono riusciti in 3 mesi, non hanno voluto farla in 3 mesi perché avevano problemi al loro interno, ma di solito la finanziaria non viene votata ad aprile come adesso in extremis o quasi fuori il tempo massimo, viene votata prima, quindi questo già faceva vedere come i democratici erano in forte difficoltà nel gestire anche al loro interno il riequilibrio, una tendenziale riequilibrio dei conti. E adesso questo nuovo grosso ostacolo del tetto al debito pubblico finirà per far esplodere le contraddizioni tra i due partiti, almeno tra l'anima che tu hai ricordato, i Tea Party, da una parte, ma che ormai direi che proprio ha preso un po' per mano il Partito Repubblicano. E la dimostrazione è quel piano, quel path to prosperity, quel sentiero alla prosperità che tu hai ricordato, proposta dal presidente della commissione delle finanze della Camera, Paul Ryan, che ha presentato la settimana scorsa, e che è un piano molto, molto dettagliato e particolare. Quando poi mi darai ancora qualche minuto, io ti posso, tenderei a entrare un po' nel merito per spiegare come i repubblicani intendono tagliare con il loro piano questa montagna di debito rispetto al, invece a quel piano di Obama che ho già ricordato, da 1.100 miliardi. Oh, molti ascoltatori mi dicono, ma come? Come il 24%? Allora, per capire, per fare comparazioni tra aggregati ragionevolmente omologhi, allora, di fronte al nostro 52,5%, che rappresenta il totale della spesa pubblica italiana su il PIL, negli Stati Uniti la spesa pubblica, di cui abbiamo parlato fino a questo momento, cioè la differenza tra il 24% di PIL a cui l'ha portata l'amministrazione attuale, il 20% oltre il quale non bisogna andare secondo i repubblicani. Questo riguarda la componente della spesa pubblica federale. Perché voi abbiate un'idea però precisa, perché altrimenti è facile fare demagogia antistatalista facendovi credere che ci siano la bellezza di 30 punti di differenza di minor spesa pubblica sul PIL rispetto all'Italia. A questi dovete sommare negli Stati Uniti al 24% appunto di andamento della spesa pubblica federale, la spesa pubblica degli stati, quella statale, che pesa al 2010 più o meno l'8% del PIL americano, e quindi questo 8% si somma al 24% della spesa federale, e poi dovete aggiungere una terza componente della spesa pubblica, che è quella locale, che è in fortissima espansione in questi anni negli Stati Uniti, e arriva è un altro 10% di PIL. Quindi la totale della spesa pubblica negli Stati Uniti è 24% federale, ci aggiungete 8% e quindi arrivate a 32% con la spesa statale, e ci aggiungete un altro 10% quella locale, e state pur sempre però a quel punto a un totale che fa 42% del PIL rispetto al nostro 52,5% del PIL. 10 punti e mezzo sono la differenza tra un peso troppo rilevante dello Stato e un peso che gli americani considerano con 10 punti, più di 10 punti in meno di PIL di spesa pubblica intermediata dalla mano pubblica, comunque una cosa spaventosamente elevata al punto tale da levare la fiducia a metà mandato a Obama. Quindi c'è una differenza culturale, ma i numeri precisi sono questi, tanto perché voi abbiate un'idea. Guido Molteddo, da questo punto di vista, la speranza con cui la parte liberal progressista in tutto il mondo aveva visto l'inizio della presidenza Obama dicendo finalmente è finito i decenni del consenso conservatore, moderato, reaganiano, thatcheriano, quello dello Stato magro e del meno tasso per crescere, si torna a un ruolo pubblico fatto per la redistribuzione oltre che per il sostegno alla crescita. Questo messaggio in America sembra entrato in crisi a mezzo mandato, però non è in crisi a casa nostra, anzi proprio questa settimana in Italia si varano strumenti senza precedenti, il fondo del tesoro per intervenire nell'economia, si brinda al fatto che banchieri privati, fondazioni private, imprenditori privati sarebbero un tutt'uno con il governo che vuole rimettere le mani in pasta, decidere lui che settori, eccetera eccetera. Siamo fuori fase noi oppure sbagliano gli americani e in qualche maniera noi che restiamo sul primo Obama, quello dei salvataggi pubblici, dell'ingresso del capitale pubblico anche nei colossi dell'auto eccetera eccetera, e siamo noi che rimaniamo fedeli a un messaggio buono secondo te? Ma io non vorrei sembrare salomonico, ma credo che tutte e due le direzioni di marcia siano messe in discussione, cioè un eccesso di intervento pubblico così come un ruolo senza praticamente controllo significativo da parte del pubblico sul privato. Cioè noi siamo reduci da una crisi che ancora non è chiusa e che non possiamo ascrivere a un eccesso di intervento pubblico, la crisi economica finanziaria mondiale. E d'altra parte anche la situazione che si trova a fronteggiare Barack Obama non è, ora non voglio fare il difensore di ufficio, ma lui è in carica da 2 anni e i 14 trillion, o non so come si dice in italiano, di debito che si trova a fronteggiare l'America, dobbiamo anche vedere com'è composto. 3.2 trillion sono proprio di eredità di Bush. Ora io non so se questo punto specifico è significativo, secondo me lo è, ma cioè, che è composto dagli sgravi fiscali, dalle guerre in Iraq, in Afghanistan e adesso anche in Libia aggiungerei, e poi da altre voci di spesa. Quindi c'è un problema, credo che ora la parola che va di moda negli Stati Uniti è, ragioniamo da adulti, da grown up o adults, come si dicono, sia Barack Obama sia il suo avversario Boehner. Ecco, ragionare da adulti secondo me significa vedere le cose come si stanno configurando adesso e che sono il frutto appunto di una crisi di sistema in cui c'è la parte del pubblico indubbiamente, ma anche il privato non è che può dire che di averla vinta sull'ideologia dello statalismo. E d'altra parte anche questo compromesso che è stato raggiunto, è vero che Barack Obama ha ceduto moltissimo sul suo terreno, ma anche la parte conservatrice, non dimentichiamo che era partita da un'idea durante la campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale di cui si è parlato, di un intervento di tagli del valore di 100 miliardi di dollari. Poi all'inizio di questa trattativa che si è conclusa, come è stato detto, si era partito da 61 miliardi di tagli e sono diventati 38 miliardi, quindi c'è un cedimento rilevante da parte del. Questo che cosa significa? Come tutti i compromessi c'è un dare e avere, un cedere e un prendere, questo è avvenuto sia da parte repubblicana sia da parte obamiana. Poi non dobbiamo dimenticare che Obama da noi è spesso descritto come un presidente ideologico che ha in testa chissà quale rinnovamento radicale, Obama è sempre stato un uomo politico molto pragmatico. E da questo punto di vista ha sempre un po' deluso la sinistra, perché è la sinistra che ha investito su di lui una visione che probabilmente è più una forma di proiezione, si direbbe nel campo psicologico più che nella politica, che non una realtà. La rivincita attraverso un Superman dei tanti anni in cui l'egemonia culturale e politica sembrava dall'altra parte, cioè da quella repubblicana, conservatrice, sì. Eccetera, eccetera. Sì, è così, infatti. E quindi io penso che, come è stato anche detto, la vera battaglia adesso è sul tetto di bilancio. Quella è una battaglia grossissima, e anche tu hai fatto all'inizio riferimento al pacchetto di proposte di Paul Ryan, che è al centro del dibattito, e quello anche è un tema estremamente interessante, che cioè tutti criticano, anche da destra criticano Paul Ryan, perché, come dice anche Fareed Zakaria sull'ultimo numero di Time, si basa su assunti magici, come per esempio una previsione di una crescita. Scherzi, che Paul Krugman gli ha fatto 4 interventi contro in 2 settimane, descrivendolo come una specie di, così, un prestigitatore dei numeri. Ai tempi di Reagan si parlava di voodoo economics. Voodoo economics, e mi pare che in questo caso, però ha detto questo, tutti riconoscono a Paul Ryan il merito di aver sollevato un vero problema. Casomai tutti dicono il problema è vero, la soluzione è sbagliata. La mia opinione, Molteddo, è che io preferirei avere tutta la vita nel nostro paese dei presidenti di commissione, come capita lì, degli esponenti dell'opposizione e della maggioranza, che sono capaci di produrre un documento per punti concreti, numeri alla mano e proposte concrete di una riga ciascuna, non di più, per dire come tagliare la bezza di 6.200 miliardi di dollari, cioè il totale su livello pluridecennale, ripeto, si spera a un terzo del PIL americano di spesa pubblica, e presentare con un sito che uno spot che dura 3 minuti e 2 secondi, animato, con la propria faccia, mettere la propria faccia, numeri precisi accanto per dire io voglio questo e non voglio questo. Chiaro, con le semplificazioni si fa spesso, come dicono i critici, li abbiamo appena ricordati, delle approssimazioni terribili, ma politici che mettono la faccia su numeri precisi è la differenza tra un paese che rispetta le proprie basi elettorali, quelle progressiste come quelle conservatrici, ma quando si tratta di denaro pubblico non tira mai indietro la faccia e la mano. Questa è la differenza fondamentale, secondo me, tra paesi seri e paesi in cui lo Stato è abituato a fotterci da una parte come dall'altra, come il nostro, pubblicità. Eccoci tornati in studio, approfondiamo un secondo allora, non dico la credibilità, ma la radicalità di queste proposte che Paul Ryan ha presentato. Ripeto, qua si tratta, almeno così dice la paginetta di Key Facts, i punti sintetici con cui l'intero documento, che potete scaricare anch'esso al sito di Paul Ryan, sembra che io faccia propaganda elettorale, ma è solo per dirvi che trovate la proposta, sono 72 cartelle di dati e proposte, e all'inizio, in sintesi, si propone di tagliare i 6.200 miliardi la spesa federale nella prossima decade rispetto al budget presidenziale e 5.8 miliardi di dollari rispetto alla base degli entitlements. Questa è la differenza. Fino a questo momento la politica americana si è dedicata a come tagliare più o meno rispetto alla spesa pubblica discrezionale, mentre invece non si è toccata la parte relativa agli entitlements. Cosa sono gli entitlements? Sono i diritti acquisiti della legislazione vigente in materia appunto sanitaria, previdenziale, eccetera eccetera. I repubblicani dicono no, la prospettiva del debito pubblico è tale che dobbiamo metterci mano anche a questo, è inutile. L'obiettivo appunto, 20% non oltre di spesa sul PIL per la componente federale di spesa pubblica, ridurre il deficit di 4.4 miliardi di dollari rispetto al budget del presidente Obama nella prossima decade. E sulle tasse, non solo tornare alla politica precedente, quella conservatrice, accusata tra l'altro di avere provocato debito pubblico, perché con Bush la spesa pubblica saliva invece che essere contenuta, come giustamente ci ricordava Moltedo, ma con degli obiettivi quantitativi. Cioè, dice Paul Ryan, qui bisogna eliminare gli 800 miliardi di dollari di incrementi di fiscali imposti dalla proposta presidenziale sulla sanità, e bisogna impedire 1.5 miliardi di dollari di aumenti fiscali proposti dal budget pluriennale del presidente. E naturalmente bisogna poi attuare una svolta soprattutto per la piccola impresa, gli individui, le famiglie, con un top rate, un'aliquota marginale che non deve mai superare il 25%. Un'aliquota marginale neutra al 25%, vi ricordo che cosa significa in termini di orizzonti paragonabili al nostro. Noi abbiamo un'aliquota privata, personale voglio dire, del 43%, mentre sulla piccola impresa, poiché il nostro sistema è regressivo, la grande paga anche 30 punti sul reddito lordo meno della piccola, ma il più dell'impresa italiana è piccola, qua si paga un'aliquota sul reddito lordo quando si ha un'impresa piccola o micro piccola che può essere anche superiore al 60% del reddito lordo, e qui si propone un'aliquota marginale massima sia per individuo che piccola impresa del 25%. Ecco, possibile che sia solo demagogia? Tu che dici, Glauco Maggi? È solo demagogia? Ma no, assolutamente, non credo proprio, anzi, perché il discorso è giusto farlo partire da Bush, che ha iniziato, che durante il suo mandato ha, per la verità, mantenuto e negli ultimi anni addirittura ridotto rispetto alla media storica la spesa discrezionale, quella su cui si può in qualche misura intervenire senza pagare un prezzo politico devastante. Ricordiamo che Bush voleva intervenire già sulla Social Security, aveva proposto una legge, ma su quella è fallito, cioè non è riuscito a portarla avanti. Quindi il suo aumento di 3.2, come è stato ricordato, era per le due guerre che sono state avviate, poi qui tutto un altro discorso, però il grosso di questo aumento era che nei suoi 8 anni sono continuati ad aumentare gli entitlements, quei diritti acquisiti a cui tu accennavi. Ora siamo al Red Rationem, siamo al dunque, e i due istituti centrali che riguardano l'assistenza sanitaria pubblica, il Medicare e il Medicaid. Il Medicare, brevemente, è il sistema che copre gli anziani oltre i 65 anni, sostanzialmente con una sorta di sistema all'italiana, cioè viene pagato tutto quello che serve, è una sorta di assegno in bianco federale che non ha controlli e che fa sì che il sistema del Medicare vada verso la bancarotta nei prossimi 15-20 anni, adesso non ricordo se è il 37, il 1937 o il 27, comunque è destinato a fallire. L'altro sistema, Medicaid, che invece è quello che copre i poveri, proprio quelli al di sotto di una fascia di reddito, che viene anche questa spostata con l'inflazione, ma insomma comunque è una fascia di reddito che fa sì che insieme Medicare e Medicaid coprano almeno un terzo degli americani circa, con un altro terzo che è coperto dalle polizze assicurative delle imprese. Quindi già questo dibattito fa vedere come quando demagogicamente si sostiene che l'America non abbia un sistema, non abbia, prima di Obama non abbia avuto un sistema di copertura sanitaria, si dice una cosa inesatta. Perché di fatto, ricordiamolo, più dell'80% degli americani ha una forma di copertura sanitaria, più dell'80%. Questo io lo dico personalmente, anche mi è capitato di ricordarlo anche al ministro Tremonti, che dice, il ministro Tremonti sta dicendo, un certo campione, non uno che scrive sul manifesto, che dice no, perché l'America è un paese in cui i vecchietti si lasciano per strada senza cure a mangiare il Kit Kat. Io in America non l'ho mai visti mangiare per il Kit Kat per strada dei vecchietti, però no, questo fa parte sì del mito e della demagogia. Comunque, per tornare alla possibilità, alla concretezza del piano, sulla Medicare, cioè su quello per gli anziani, la proposta che non getterà nessuno nelle strade è che quelli che sono sotto i 55 anni non verranno toccati da questa riforma fino al 2022, quando invece sarà abolito, quindi progressivamente si arriverà al 2022, ad abolire il sistema che ho chiamato dell'assegno in bianco, che è quello che va a portare al fallimento, e sostituito invece con un sistema di garanzia di premi assicurativi agli anziani, che potranno investirli in polizze sanitarie e per fare un paragone avranno lo stesso sistema sanitario che oggi hanno i membri del Congresso americano, i parlamentari americani, che hanno questo tipo di polizza privata coperta. L'altro sistema, il Medicaid per i poveri, che oggi è a carico federale, viene cambiato in questa maniera: si dà ad ogni Stato una somma che viene stabilita ovviamente anno per anno, e questa somma viene poi gestita dagli stati singoli, ognuno, per la funzione di coprire i veri indigenti. Ogni stato poi si regola secondo una flessibilità indubbiamente maggiore, perché questo che tu hai ricordato è alla base, cioè il concetto del fatto che gli elettori possono controllare meglio i politici, più vicino è il centro di decisione di spesa, è una verità americana, che scende fino giù all'elezione dei sindaci, per arrivare a quella dei governatori e poi dopo a quella dei parlamentari. In questo senso la maggior flessibilità che viene garantita agli stati dovrebbe, nei piani dei repubblicani, far sì di avere un servizio possibilmente maggiore, più mirato, meno inefficiente, con una spesa controllata. L'altro aspetto delle tasse, che pure tu hai citato correttamente, cioè l'abbassamento al 25% all'incirca, sia per gli individui, per le famiglie, sia per le corporation piccole e grandi, questo 25% sarebbe in realtà compensato da quello che oggi è il sistema dei cosiddetti loopholes, le eccezioni, le agevolazioni, i casi di sconti fiscali. Che si abbatte di molto le deduzioni e detrazioni consentite dall'ordinamento. Esattamente, che oggi è un po', fa sì che nella buona sostanza, per esempio lo scandalo è uscito per quanto riguarda la General Electric di Immelt, che è che è diventato, è stato nominato consigliere economico di Obama. Ecco, praticamente non paga tasse, perché le aziende che dovrebbero pagare il 35%, che è altissimo, le corporation sul piano mondiale hanno tante tali giustificazioni per dedurre e detrarre, che vanno in credito fiscale praticamente. Esattamente, quindi questo 25% sarà invece effettivamente pagato, che tutte quelle altre voci che oggi consentono il dribbling dovrebbero cadere. Bene, però per capirci, lì si parla di numeri e termini concreti. Noi aspettiamo una proposta di riforma fiscale da decenni, visto che da 17 anni, in una ragione per una legislatura sì e una no, al governo e chi ha proposto di abbassare lo Stato, di diminuire le aliquote marginali, di modificare l'ordinamento. E la differenza è che l'America lo fa volta per volta con svolte che hanno impatto mondiale. Noi qua continuiamo ad aspettare. E ora, dopo l'interruzione sulle informazioni stradali, con il professor Emiliano Brancaccio avremo un confronto con una parte di coloro che in Italia dicono: state buoni per favore, perché non ci proponete l'errore che già tanti danni ha fatto negli ultimi decenni dell'impostazione reaganiana bassa tassaiola, come la chiamo io parlando della mia. Perché in Italia la mia opinione è che noi bisogna che dialoghiamo sapendo che chi la pensa come me è pura minoranza. E quindi col professor Brancaccio la parte finale della nostra trasmissione sulla controvoce, perché c'è chi dice: se l'America vuole risbagliare dopo gli errori che ha commesso, padrona, ma noi qua in Italia non copiamola. Allora, dopo tante cifre e tanta descrizione sul compromesso al ribasso dal suo punto di vista che Obama è stato obbligato a raggiungere con i repubblicani, perché altrimenti gli uffici federali in quel grande paese non aprivano, e io sono a favore di norme così cogenti che alla fine inducono per forza, come vedete, maggioranza e opposizione a prendere delle decisioni. Da noi queste misure cogenti non ci sono, e quindi ciascuno poi va avanti, e va avanti di solito a spendere più di quello che dice e a tassare più di quello che dice, o a tassare comunque anche quando ha 17 anni che prende i voti dicendo che le tasse ce le abbassa. Chiedo al professor Emiliano Brancaccio, ripeto a tutti, lo avete sentito più volte, insegna economia politica all'Università del Sannio, e che naturalmente è un keynesiano, scrive e anima con le sue proposte, insieme a tanti altri accademici intellettuali del nostro paese, una tenace linea di critica ragionata ma risoluta all'impostazione del meno Stato e meno tasse. Secondo lei questo dibattito americano e questa pressione dal basso per cifre così rilevanti, cui i politici americani mettono la propria faccia a fianco, non sviando dai numeri come capita sempre in Italia, che cosa ci insegna? Ci insegna che c'è una retromarcia pericolosa che dalla America rischia di espandersi nel resto delle nazioni avanzate, oppure è qualche cosa semplicemente che ci deve indurre a dire sono errori che noi comunque non commetteremo e non dobbiamo commettere? Professor Brancaccio. Ma guardi, io in primo luogo ho qualche perplessità riguardo alla interpretazione dello scenario politico e di politica economica americana che è stato suggerito dai suoi interlocutori di stamattina. In particolare non credo proprio che si possa dire, tra le altre cose, che i repubblicani in questa fase siano per il rigore di bilancio o delle difficoltà. Mi spiego, la sostenibilità del debito pubblico, perché se è questo che dobbiamo discuterne diciamo con precisione, dipende molto dalle scelte relative all'andamento del dollaro e alla posizione con l'estero. Non si discute di sostenibilità del debito pubblico se non guardando alle scelte che si fanno sul dollaro e della posizione con l'estero. Ebbene, a me non risulta che negli Stati Uniti ci sia qualche mattacchione che in questo momento pensi di poter tutelare, diciamo, il dollaro da eventuali ulteriori deprezzamenti. Né mi sembra che ci siano soggetti che in questo momento stanno criticando la politica protezionistica che gli Stati Uniti stanno adottando in questa fase, con 23 misure di protezione commerciale tra il 2008 e il 2010 sostenute. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che gli americani molto probabilmente si apprestano a monetizzare ulteriormente il debito pubblico. Questo è un dato di fatto. Sì, sì. Per quanto riguarda i repubblicani, ebbene, io francamente ho delle difficoltà, cioè, diciamo, per capirci a chi tecnicamente non segue la sintesi, significa che da una parte la politica monetaria lasca seguita dall'autorità monetaria americana, quindi il fatto che ci sia una questione interventista per cui si traduce in moneta una parte del debito, e con l'effetto di deprezzamento del dollaro sui mercati ulteriormente si deprime attraverso questo fattore monetario il valore reale del totale del debito pubblico. Questa faccenda l'America America la fa tradizionalmente, perché col dollaro, che noi utilizziamo in tutto il mondo, i mercati delle commodity eccetera eccetera, dice: cari ragazzi, il debito è nostro, ma noi lo deprezziamo buttandolo sulle vostre spalle. Chiusa della spiega un po' non troppo tecnica, mi scusi professore. No, no, ha fatto benissimo, ed è sostanzialmente così. Per quanto riguarda poi, diciamo, questa posizione rigorista per il rigore di bilancio dei repubblicani, beh, qui dobbiamo un attimo chiarirci. Per quanto riguarda la notevole crescita del disavanzo pubblico americano, molto maggiore di quella che si è verificata in Europa, siamo arrivati all'11% del deficit pubblico annuale sì. americano, beh, una bella parte se la prendono i repubblicani. Ma aggiungerei pure che per quanto riguarda, diciamo, le proposte che sono state avanzate, innanzitutto i repubblicani sono riusciti a strappare una riforma fiscale che abbatte ulteriormente le tasse soprattutto sui più ricchi e che mantiene gli sgravi fiscali per i più ricchi, che a regime in 10 anni costerà 900 miliardi di dollari. Questo è avvenuto in dicembre ed è stata approvata. Per quanto riguarda le proposte ulteriori, appunto, dei repubblicani, ebbene, l'ufficio del Congresso ha stimato che il costo complessivo della riduzione delle aliquote al 25% proposto da Ryan determina un incremento del deficit pubblico pari a 3.000 miliardi di dollari in 10 anni. Ora, l'ufficio del Congresso, leggo qui, dichiara che le proposte di copertura sostenute da Ryan non sono sufficientemente chiare perché si possa poi, come dire, stimarle. Quindi fondamentalmente noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui per il momento non esiste un vero nemico del disavanzo pubblico negli Stati Uniti. Perché sono tutti in realtà abbastanza d'accordo, a differenza delle commedie che recitano, lei dice. Ecco, no, e poi se eventualmente dovesse emergere condizione politica, perché poi a questo punto di lotta politica si tratta, tale per cui effettivamente si dovessero realizzare anche solo alcune delle proposte di Ryan di riduzione, diciamo, della copertura sanitaria e di varie altre forme di erogazione di servizi pubblici, beh, io mi permetto di fare questa osservazione, che però a questo punto è un'osservazione politica, sì, non macroeconomica. Sì, sì, sì. La mia osservazione politica è questa: l'America, se dovesse vincere, diciamo, il Tea Party, cioè l'ala destra del Partito sì. Repubblicano, si ritroverà ad allontanarsi sempre di più da quello che è stato il sogno americano. Mi spiego, mi spiego. Gli Stati Uniti sono caratterizzati, dati OCSE, da livelli di mobilità sociale bassissimi, che sì. sono tra l'altro precipitati nel corso di questo ventennio. E quindi lei dice, se proprio il sostegno sociale viene meno, è la mobilità, cioè il fondamento, il motore del sogno americano, quella che si attenta ulteriormente. E questo è uno dei proprio contrasti di fondo, effettivamente, su il ruolo dello Stato e ciò che deve fare lo Stato per chi ha meno, rispetto a ciò che dovrebbe essere l'anima e l'obiettivo primario dell'intervento pubblico, cioè l'eguaglianza delle posizioni di partenza, per così dire. Ora, avrete capito che il dibattito americano è molto lontano dal nostro, però è su cifre e ci si batte mettendo la faccia sopra. Io concludo ringraziando i nostri ospiti dicendo che nel nostro paese la riforma fiscale è una presa per i fondelli, continuamente promessa e mai approfondita. Ora ci sono 4 commissioni che devono presentare entro aprile le proposte, vedremo. Questa settimana intanto c'è un piano nazionale di riforma che andrà in Europa, nessuno ne ha parlato. Io ho grande comprensione verso il ministro dell'economia come Tremonti, che deve il più possibile evitare che le sue proposte, andando in giro, vengano ulteriormente indebolite, però preferisco un paese tutta la vita come l'America che dice: si chiudono gli uffici se i politici non sono messi le condizioni su numeri precisi di dover concordare. Viva l'America, per quello che mi riguarda. A domani, Rina Giornale Radio. Yeah.